Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:19 in punto, caro Oscar. In punto, caro Alessandro Mina, cari ascoltatori. Un auguro a chi oggi festeggia Virginia. Oggi è Santa Virginia, però Santa è anche Virginia. San Valeriano. A me piace molto questo San Bacco. Questo San Bacco è un altro del martirologio cristiano decapitato dagli islamici. Nel senso che famiglia palestinese, siamo nell'VIII secolo dopo Cristo, i fratelli e le sorelle si convertono all'Islam, lui no, e uno dei fratelli lo denuncia e gli tagliano la testa. Così. San Bacco. E dedichiamo naturalmente tutti questi santi all'arcivescovo di Trapani. Eccolo lì, lo sapevo, l'ex arcivescovo di Trapani. Oscar Giannino, quando vede queste notizie sulla chiesa, l'otto per mille, i soldi che sarebbero... 2 milioni intascati dall'otto per mille, dall'ex vescovo di Trapani. Ma tu non hai capito, tu esulti per lui o esulti perché porta acqua al tuo mulino di dire bisognerebbe l'8 per mille, è una truffa fatta a tavolino dallo Stato debole contro la Chiesa Cattolica, l'unica intesa bilaterale con una commissione mista, le altre non hanno commissioni miste, ed ecco che fine fanno. Vabbè. Attenzione, caro Oscar, perché gli ascoltatori... Ma se l'è messo in tasca il suo patrimonio, due milioni di euro. Questa è l'accusa. Tra l'altro, pare che abbia voluto anche incontrare il Papa. Il Papa. È andato dal Papa. Si è confuso nell'udienza generale, quando i vescovi non si devono presentare per nome e cognome in mezzo agli altri, ma il Papa qualcuno l'ha riconosciuto. Sai insomma, faceva? Ha detto no, quello che portò male a Cuffaro, che è uscito intanto adesso dopo anni di carcere perché è stato ordinato ai servizi sociali, ex presidente della Lombardia, lo chiamavano Vasa, appunto, perché incontrava gente anche nella Chiesa Cattolica si fa così, come vede. Del resto, altri arresti per tangenti alla RAI a Palazzo Chigi. Branciforte, questa è l'Italia. Chi hanno arrestato qualcuno a Palazzo Chigi? Aspetta. Di Palazzo Chigi. Branciforte pagava per appalti a Qualtra, RAI, Mediaset, Infront, la società del trucco dei diritti televisivi, la RAI, e anche a Palazzo Chigi. Insomma, anche in TV per lavorare, secondo l'accusa, si pagavano tangenti. Del resto si pagano tangenti. Abbiamo finito con le notizie. No, tangenti. Ai guai finanzieri per entrare nella Guardia di Finanza, al presidio etico dello Stato, perché siamo noi che invece non paghiamo le tasse. È vero, hanno pizzicato 3 finanzieri che chiedevano soldi agli aspiranti finanzieri per fargli passare il concorso, e talvolta tra l'altro non lo passavano. Qual è lo spirito del corpo? No, dai, adesso mi arrabbio. Ma io l'ho detto apposta. Sembra poi che io sono amico dei finanzieri, io sono amico di tutti e non sono amico di nessuno. Adesso stiamo facendo ironia. Hai ragione tu, non si tratta di attribuire al corpo della Guardia di Finanza le finalità, però il problema è: ma accipicchi, ma è possibile che ne becchiamo 1, 2, 3, 5, 10 al mese nella Guardia di Finanza di persone che dirazzano? Perché purtroppo l'effetto è quello di rendere meno credibile i fini del corpo. L'occasione fa l'uomo ladro, l'aveva detto qualcuno un pochino di anni fa. Lo Stato ladro fa l'uomo ladro. Tu l'hai rivisitata come lo Stato fa l'uomo ladro, non l'occasione fa l'uomo ladro. Lo Stato fa l'uomo ladro. Allora, caro Oscar, guarda che stiamo diventando anche per molti un punto di riferimento. Adesso funziona così: ci prendono come il punto ora, quando la RAI faceva le 8, le 9, c'è un'ascoltatrice che dice: se quando inizia Oscar Giannino non sono ancora telepassata, sarò in ritardo tutta la giornata. E Patrizia tra Mantova e Modena Nord, cioè ci considerano come dire, come il punto, no, hanno già iniziato e sono indietro di 3 km rispetto, è così. Non porto i figli, sono in ritardo i figli per ingresso a scuola. Sì, esatto. Esatto. Nota sul diario. Funziona così. Allora, cari amici, 800 24 00 24, oggi vi vogliamo chiedere banalmente la domanda politica del giorno. Cioè, ma insomma, questo ministro Maddalena Boschi si deve dimettere secondo voi, come chiedono al Movimento 5 Stelle, come chiedono le opposizioni, come chiedono oppure non c'entra nulla, insomma, la questione politica con il fatto che il padre e il fratello fossero in banca Etruria. Ecco, questa è la domanda che vogliamo. Se avete tempo prima di risponderci, ma questo dipende da che cosa state facendo, una rapida lettura: l'intervista alla mamma del ministro sul Corriere della Sera, che insomma dedicata dice... a te questa Oscar, ma insomma, cioè... perché dedicata a me? No, questa. Viva la mamma in generale, sì. Però insomma, diciamo che la signora, sorpresa dall'inviato del Corriere della Sera, è ingenua al punto di dire: ma io non le sto dicendo nulla, lei non le scrive nulla, perché sennò la mia Maria Elena bimba si arrabbia. Diciamo, non usa argomenti di particolare sagacia, se mi consente, Alessandro, perché dice: il nuovo che avanza fa paura. Ecco, il insomma, nuovo. A favore della figlia giovane lì, rampante, dei rottamatori italiani, usare l'argomento "il nuovo fa paura", nuovo è ovvio che paura. Parla dei 5 Stelle, non mi pare però un grande argomento. Dice anche un'altra cosa interessante: quando il giornalista del Corriere, che chiaramente era alla ricerca o del padre o del fratello, della Boschi, ma si accontenta della madre, della Boschi, che ha fatto politica pure lei, però. Che è stata vice sindaco nel paesino a San Giovanni Valdarno, dove e dice una cosa interessante la mamma della Boschi, perché dice: guardate che c'è un'inchiesta e per fortuna, perché verrà fuori la verità e avrete delle sorprese. Che vuol dire avrete delle sorprese? Non lo so, la sua tesi: mai preso un euro. Forse non ha capito la signora che l'accusa è di movimentare gli euro in Banca Etruria. Cioè, non quelli di prendere, quelli di movimentare, cioè di darli alle cooperative guidate dall'ex papà che è stato presidente delle cooperative, dal papà che è stato ex presidente delle cooperative e così via. Vediamo quali saranno. Vediamo. Anche perché un'inchiesta è stata aperta. Però c'è l'aspetto politico. Di certo in retroscena raccontano il ministro Boschi, che però è combattiva, coriacea, dice Repubblica, no? Non ho mai lasciato nulla a metà in vita mia, nemmeno un libro, figurarsi se mi dimetto per un attacco di questo genere. Però sulla stampa, se restiamo sull'argomento, mi ha colpito, anche un po' sorpreso, perché in generale chi firma l'articolo, secondo me, è abbastanza, secondo me, miei occhi, ben documentato. E la stampa è l'unico quotidiano che invece parla di un Renzi che in privato esprime dubbi sulla Leopolda e che dice: è stata una ingenua Maria Elena. Ecco, questo è il retroscena. Francesco Maisano, ingenua perché ha sbagliato a non venire fin dall'inizio la Leopolda, ha sbagliato a manifestare con il suo atteggiamento lì il suo evidente imbarazzo. Quindi la critica qua è raccolta con virgolettati attribuiti al Presidente del Consiglio, naturalmente questa è sempre una tecnica più o meno discutibile, però c'è una pagina intera in privato dubbi sulla Leopolda. Sì, faccio notare anzi anche che invece su Libero Maurizio Belpietro dice: ma come, quando la Cancellieri era ministra della giustizia ci fu la telefonata con la consorte di Ligresti per il figlio, Maria Elena Boschi dichiarò testuale a Ballarò: io al suo posto mi sarei dimessa. Già. C'è un punto grave in questa vicenda, e cioè si è data l'immagine di un paese in cui ci sono corsie preferenziali per gli amici degli amici. Ora le vicende sono diverse, ovviamente, però è chiaro che la politica è anche fatta così, insomma, a volte dichiarazioni che si fanno. È quasi sempre fatta così. Dichiarazioni che si agli fanno. Agli altri si chiede l'applicazione di una norma che a se stesso non si applica. Questa è la politica. Ecco, per cui per te si deve dimettere? Io credo che fino a che è stata zitta non c'era problema, non ha partecipato ai conflitti dei ministri, quindi insomma si è tenuta la regola del conflitto di interesse. Quando la prima dichiarazione che ha reso, invece di capire che doveva parlare del padre e dare particolare in più, se non le vuole dare è libera di non darle, ma invece ha attaccato l'Europa, io a quel punto dico: a questa manca il senso politico, perché non può, cosa c'entra l'Europa con tuo padre? Quindi lo traduciamo con un sì? No, io dico che non è obbligata, certo perde molti punti, li fa perdere Renzi, li fa perdere il suo partito, la credibilità del governo. Secondo me non c'è non deve dimettersi, dico, per così dire. Questa è la mia opinione, non deve dimettersi, nel senso non che la vicenda non sia da indagare, ma è da indagare per responsabilità eventuali personali, diciamo, dei dirigenti. Diciamo che tra gli amici, perché c'è anche questo, un'operazione immobiliare di Banca Etruria, la dismissione degli immobili, i giornalisti stanno indagando e anche la procura, perché in questa dismissione di immobili a prezzi di assoluto realizzo, quindi di favore, oltre a una cooperativa molto rilevante nella sinistra che si chiama Manutencoop, ci sono anche amici di Renzi. Allora, in questa storia dell'Etruria, io lo dico con serietà, secondo me la credibilità personale di questa intatta volontà volontà di essere il nuovo, i puliti, eccetera, eccetera, di Renzi e la Bosca, cioè il cuore forte del renzismo, secondo me si sta sporcando. Loro dovrebbero reagire diversamente, spiegare tutto, non fare quelli che dicono questo attacco è pretestuoso, non vi diciamo niente. Che spiegare cosa ha detto Renzi? Scusami, se ci rifletti, che cosa ha detto Renzi? Ha detto, la del padre, no? Ha detto io è difficile spiegare a mio padre da 2 anni indagato che deve stare zitto. E questo è il cuore della difesa. Invece sì, dovrebbe perché dirgli... ha detto lui vorrebbe reagire e io gli ho detto invece stiamo muti, attendiamo la verità, il tempo, insomma, dalla nostra parte. Però un contributo per che la verità si fermi e dirla. Allora, sentiamo gli ascoltatori. Salvatore dalla Spezia ci chiama. Salvatore, buongiorno. Buongiorno Giannino, buongiorno Alino. Eccoci. Il nuovo che avanza, se la Boschi fa paura. E tutto il suo governo. Però io volevo fare un altro ragionamento, mi scusi. Se prima, investendo 100.000 euro con le banche, mi veniva proposto un 6% e non vi è stato controllo, ora l'alternativa di investire 100.000 euro per un 2% senza controllo comunque. Perché dice nel frattempo cosa è cambiato? È mica torto. No, e non a torto. Non ha torto, anzi, io posso dirle. No, ma è chiaro che se no. Infatti, io, bisognerebbe, Salvatore, se intercetto bene il cuore del suo problema, che questo ennesimo scandalo serva a cambiare poi delle regole, a cambiare il timore che io ho detto da 3 giorni, cioè non vorrei che tra questo è colpa dell'Unione Europea, no, è colpa della Banca Italia, è colpa della Consob di qui di là. Alla fine all'italiana non si cambia nulla. E poi ci ritroveremo al prossimo scandalo a commentare le stesse cose, no? No, invece Salvatore dice almeno serve a cambiare qualcosa, anche perché cambiasse anche un po' le teste dei nostri direttori, di chi fa il nostro giornale. Io oggi sono, lo voglio dire, mi prendo responsabilità di questa critica, molto amaramente colpito per esempio dalla svolta che viene fatta dalla stampa diretta da Mario Calabrese, che tra pochissimi giorni diventa direttore di Repubblica. La stampa di oggi mi perplime molto, perché c'è un fondo sui temi del nostro, sollevati dal nostro ascoltatore, che dice risparmio e maneggiare con cura, dice Francesco Malacorda, e la sintesi è no, un momento, cioè non esageriamo. Dopodiché c'è un altro secondo fondo di Marcello Sorgi che dice una commissione inchiesta parlamentare. Ma no, c'è un rischio di delegittimazione di Banca Italia, non esageriamo. Poi c'è una pagina intera di un collega valoroso che io stimo, Stefano Lepri, che dice che cosa avviene e che cosa non avviene, e anche qua a un certo punto più trasparenza è essenziale, dice Stefano Lepri, però non esageriamo, perché il sistema bancario vive di fiducia, mica lo vogliamo sputtanare troppo. Ecco, questo spirito che troppe volte hanno avuto i media, secondo me non è utile. Troppo difensivo. Corrivo con Banca Italia, che continua a dire che c'è una legge del Parlamento, mentre le direttive europee e le autorità esistono per escludere i titoli rischiosi dal pubblico retail senza bisogno di leggi. Il solo fatto che Banca Italia dice che scivola una legge è perché si sta coprendo la responsabilità. Tutto qui. Allora, sentiamo Giuseppe da Milano. Che ci vuole dire, Giuseppe? Buongiorno e grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Allora, il tempo vorrei dare due riflessioni, perché sono stato un ex dirigente banca. Mi riferisco prima alla Maria Elena Boschi. A mesi addietro veniva osannata questa ragazza. A me pare che oggi, pur del parere che in un momento come questo dovrebbe dare le dimissioni, perché almeno se poi è tutto chiaro, venga pure ripescata. Beh, non funziona proprio così, non funziona proprio così in Italia. No, non se funziona. dà le dimissioni, non è che poi. Vabbè, potrebbe. Renzi è bravo a fare tante cose, quindi sono sicuro potrebbe trovare anche una bella soluzione a questo. Però è giusto anche, questo uomo è stato, pare, vicepresidente della banca, salvo precedenti incarichi, per 8 mesi. In 8 mesi un vicepresidente della banca non fa in tempo a fare, a meno che non l'abbia influenzato in altri così con altre opportunità, ecco questo. E quindi, a mio parere, adesso c'è un'indagine della magistratura, se la magistratura ritiene che sia stato coinvolto, la ministra darà certamente le sue dimissioni. Ma perché? Cioè, se è coinvolto il padre, cioè mi faccia capire, se dovesse essere coinvolto il padre, non può la figlia fare il ministro? No, chiedo, è una domanda laica. No, io dico che una che è seduta in quel posto può certamente influenzare, eppure sarà candida finché si vuole. Renzi è un bravo fiorentino che sa gestire le sue situazioni, sa cambiare, tenere atteggiamenti diversi per uno o per l'altro. È inopportuno. Credo che proprio per questione di quello che ha sempre predicato è opportuno che faccia un passo indietro. È chiara la sua opinione, Giuseppe, la ringraziamo. Diamo gli Oscar, perché poi approfondiremo questo argomento anche con ospiti. Avremo Chicco Testa, avremo Ferruccio De Bortoli, grande maestro di giornalismo, con noi tra poco. Ma gli Oscar. And the Oscar goes to... Io l'Oscar oggi lo do ai barbieri della Camera. Barbieri della Camera. Chiude la barberia della Camera, forse nel 2016. Forse, 400.000 euro di deficit, perché ormai nessuno va lì, costa troppo. Dove vanno? Dai cinesi? Non lo so. Ha capito? Gli hanno tagliato troppo i vitalizi e le indennità, sti parlamentari. Dice, forse sono troppo giovani i parlamentari, vogliono tagli più alla moda. Vanno dai parrucchieri, quelli che ti fanno, sai, le pettinature alla Balotelli, queste, no, non ne vedo molte, ma sono, usano i tupè alla Berlusconi, alla Trump. Oppure sono troppo vecchi, bisogno del tupè. Insomma, chiude la barberia della Camera. Allora, ai barbieri della Camera, il mio Oscar. Il mio invece a quella meravigliosa stamperia dietro San Pietro, scoperta ieri dalle forze dell'ordine, la stamperia abusiva delle indulgenze papali. La Chiesa secolare non cambia mai. Niente, non te ne sfugge dopo una. I secoli di Martino Lutero. Io penso che sia un qualche arcivescovo stesso che l'ha aperta là dietro, tanto per dire, beh, insomma, ma queste anime salviamole anche con un po' di obolo petrino. Hai visto se c'entra mica Bertone? Per il momento no. Che pare che si pagasse pro attico, c'era la formula era quella. E poi lasciamelo dire, altro che Leopolda, ieri l'ho sentito in tedesco, poi in realtà ho avuto una sintesi e l'ho tradotta dell'intervento della Merkel al congresso, la cena meravigliosa, 9 minuti di applausi, ma che Leopolda, wir schaffen das, ce la faremo, 9 minuti di applausi. Che sono un po' come i 92 minuti, ti ricordi la corazzata Potemkin, 92 minuti di applausi. I giornali avevano spiegato per settimane una crisi assoluta nel suo partito, la mette alla porta, 9 minuti di applausi. La Merkel. Allora, tra poco con Ferruccio De Bortoli e Chicco Testa e le vostre chiamate, state con... Eccoci qui alle 8:39 minuti, caro Oscar Giannino. Allora, siamo qui. Lo so che sei un po' dimesso perché Berlusconi è deluso dal Milan di Milano. Però dai, battutina. No, ma è giusto. Andiamo infierisci pure. Infatti, sono solidale con te, fratello. Allora, noi vorremmo salutare colui che è stato direttore del Corriere della Sera, direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. Buongiorno, direttore. Benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, la domanda che ci stavamo ponendo io e Oscar Giannino è questa, insomma, è la domanda che si pongono tutti intanto. Ma ministro Boschi si dovrebbe dimettere per una vicenda che giudiziariamente però non la riguarda niente, ma di opportunità politica per i legami col padre e il fratello nella Banca Etruria? Che ne pensa? No, io credo che dovrebbe dare qualche chiarimento, insomma, lo ha detto abbastanza bene Massimo Mucchetti in un'intervista ieri sul Corriere della Sera. Insomma, forse è il caso di dare una serie di chiarimenti. Peraltro oggi vedo anche un'intervista della madre, una serie di chiarimenti in cui si dimostrano le cose che sono state dette in questi giorni da parte loro, cioè che non hanno alcuna responsabilità diretta. Insomma, un ministro della Repubblica ha un dovere di trasparenza nei confronti dei propri amministrati, dei propri cittadini, dei propri elettori. Insomma, credo che uno sforzo di trasparenza sarebbe auspicabile e io non parlerei subito di dimissioni. Insomma, cioè noi invochiamo le dimissioni con molta facilità in questo paese. Insomma, poi ovviamente se ci dovessero essere degli elementi, sì, ovviamente si possono richiedere le dimissioni. Però al momento credo che sia giusto fare chiarezza, visto che il padre ha svolto un ruolo, anche se per un breve periodo, nella Banca Etruria, poi credo anche altri familiari. Giusto che ci sia, insomma, un rendiconto più preciso. In altri paesi, negli Stati Uniti, ovviamente ci sarebbe per esempio una grandissima attenzione ad avere chiarimenti su tutti i dettagli. Tra l'altro, insieme a lei c'è anche Chicco Testa, che vogliamo salutare. Buongiorno Testa, ben ritrovato, imprenditore, eccoci qua. C'è un altro aspetto che ci ha molto incuriosito dalla Leopolda, la questione del rapporto tra Renzi e i giornali. Lo vogliamo sentire Renzi cosa ha detto alla Leopolda? Non consentiremo al titolo di un giornale di cambiarci la giornata, perché noi abbiamo due alleati, la verità e il tempo, e stanno dalla parte nostra. Verità e tempo, vabbè. Sentimi di dire che quando un politico dice che la verità e il tempo stanno dalla sua parte, i giornali sbagliano. Io sono d'accordo con quello che ha scritto Mattia Feltri ieri sulla stampa. È il classico segnale di un politico il cui mutolo inizia a battere in testa. Perché la libera stampa non si declina dicendo chi critica non capisce, mentre io, il politico, o sono la verità, e il tempo, che è una categoria verso la quale essere. Non lo so, Ferruccio De Bortoli, che ne pensa di questo rapporto? È davvero un Renzi che ha un po' perso la luna di miele con gli italiani? Ha ragione Oscar Giannino, è una prova di debolezza, ma anche una prova di arroganza, perché l'uomo è arrogante. Insomma, allora, possiamo girarla in questo modo. Quanti titoli sbagliati i giornali hanno fatto su annunci di Renzi che non si sono realizzati? Vogliamo metterli tutti in fila, insomma? Allora potremmo, parafrasando il primo ministro, dice: non consentiremo al primo ministro di farci fare una serie di titoli che poi alla fine creano delle attese nei confronti tra gli italiani, attese che poi non sono state poi seguite da realizzazioni concrete. Tra l'altro un atteggiamento di questo tipo mette in ombra quello che di buono, e devo dire molto, è stato fatto di buono anche da questo governo. Cioè, valorizziamo le cose che sono state fatte. Se qualche annuncio non è stato possibile poi metterlo in pratica, e sarebbe onestà dire: guardate, io vi ho detto una serie di cose che non sono riuscito a realizzare. Sarebbe una dimostrazione di onestà e anche di umiltà, perché bisogna essere anche un po' umili quando si governa. Chicco Testa, è un segno di debolezza, dice Ferruccio De Bortoli, questo di Renzi, anche di arroganza. Ma dunque, non l'ho trovata una grande idea. Aveva più l'aspetto della goliardata, per la verità, che dell'attacco politico o di altre parole che sono state usate, o semplicemente un'idea un po' sbagliata. E però vorrei dire a Ferruccio De Bortoli: se i giornali hanno fatto dei titoli sbagliati sugli annunci positivi del governo, non è che in questo modo hanno migliorato la posizione, sempre di errori si tratta. No, cioè di un'informazione che onestamente ha dei tratti esasperati, ma questa è una considerazione mia, forse non se ne doveva parlare alla Leopolda, non è il posto giusto, di un'informazione però che ha dei tratti sicuramente esasperati e che invece dovrebbe guardare forse di meno al titolo delle 24 ore successive, ma a proporre letture, interpretazioni pacate e approfondite della situazione, no? Anche questa polemica sulle dimissioni della Bortoli, Ferruccio dice, e capisco cosa vuol dire, deve chiarire, ma attenzione, non è che qui le cose si chiariscono con le interviste, no? Io trovo che anche l'intervista della mamma della Boschi di questa mattina me la sarei risparmiata. Qui ci sono fatti molto gravi, ci saranno delle responsabilità, ci sono inchieste in corso. Le carte devono dire come stanno le cose, non le interviste. Ma infatti la stessa Chicco, su questo io ti invito a riflettere, perché stai dicendo una cosa che mi sorprende da parte tua. Scusami, scusa, ti spiego. Allora, chi ha a cuore l'efficienza di questo grande motore della crescita che è il risparmio italiano, perché io sono tra quelli che non accusano gli italiani, come fanno altri, di risparmiare troppo, per fortuna risparmiano, e poi risparmiano per le tasse così. Ma insomma, che viene maltrattato, perché da anni noi... Ma non c'è dubbio alcuno. Che abbiamo raccontato con un grande meccanismo di connivenza tra regolatori del mercato bancario, del risparmio, politica, eccetera, eccetera, che era un sistema bancario più sano, più puro, più trasparente del mondo. Come sappiamo, non è vero. Perché sono molto diffusi meccanismi collusivi tra manager bancari di istituti territoriali, riguardo le popolari, riguardo le BCC, riguardano esattamente banche come la Popolare Etruria Lazio. in cui vertici bancari, di espressioni di poteri locali, il papà del ministro Boschi è stato per anni capo di Confcooperative, i presidenti di quella banca, lui restava mentre i presidenti giravano, sono espressione di quel mondo delle cooperative. I sovraffidamenti ai soci sono fatti ai soci e a quel mondo delle cooperative, eccetera eccetera. Quindi il papà della Boschi finisce sotto indagine perché è espressione di questo meccanismo collusivo, che è il difetto di fondo di vasta parte del sistema territoriale bancario italiano, verso il quale i regolatori e la politica sono stati troppo collusivi e conniventi. Per questo io mi sento di dire, Chico, che sono un po' stupito nel dire: parlino le carte quando ci siano, quando i magistrati faranno il loro, ma siccome questo è il problema politico di fondo del fatto che c'erano le regole per cui quei titoli non andavano venduti a Risparmio Retail, e Banca Italia e Consob che hanno scritto quelle regole, la Consob e Banca Italia sapeva perfettamente che c'erano, dicono l'un con l'altro, ma insomma prendetevela con qualcun altro, è perché le banche corte di capitale sono espressione di questo meccanismo collusivo in troppa parte d'Italia. Allora, per questo io dico che la politica su questo, altro che se deve spiegare, non c'entra niente con questi fatti. Il presidente Rosi, l'ultimo presidente dell'istituto, verso il quale la stessa Banca Italia apre un procedimento per violazione articolo 136 del TUB per parti correlati, perché finanziava interventi immobiliari a società cooperative, espressione del suo mondo, cioè quello di Rosi e di quello del vicepresidente Boschi, sono tutte cose inventate. C'è un procedimento aperto allora dalla Banca d'Italia. Insomma, secondo me su queste cose, con serietà, con rigore, senza esagerare, senza demagogia, insomma, un politico deve mettersi in condizione di spiegare che cosa faceva suo padre, espressione di questo meccanismo che territorialmente è alla base di questo consenso collusivo del sistema bancario. Però chiedo a entrambi, sia a te che poi a Ferruccio e Bortoli, se mi sbaglio ditemi in che cosa. No, hai detto una serie di cose che io condivido al 99,9%, sono assolutamente rimasto esterrefatto nell'apprendere che potessero essere venduti titoli tossici di questo genere, titoli ad alto rischio a risparmiatori che non avevano né le conoscenze né il capitale sufficiente per affrontare un rischio di questo genere, e sono stupito del fatto che non ci fossero divieti più forti rispetto a operazioni di questo genere. Dico semplicemente che c'è una situazione complessa, tu stesso hai citato responsabilità di Banca d'Italia, di Consob, eccetera, eccetera, eccetera, per le quali i chiarimenti individuali, soprattutto di una ministra che probabilmente sa e non sa che cos'è successo in quella banca, sono chiarimenti che a questo punto non capisco cosa dovrebbero riguardare, credo. Ripeto che il chiarimento vada fatto ricostruendo esattamente la situazione e facendo parlare le carte. E poi chiarimenti, poi, che onestamente non capisco cosa dovrebbe chiarire la Boschi, soprattutto se poi il padre della Boschi vorrà fare qualche chiarimento sul suo atteggiamento, Farà, per carità, ben venga, ma non è che credo che questo qui risolverà il problema. Qui ci sono fatti oggettivi che vanno ricostruiti con grande esattezza, punto. Sul resto sono perfettamente d'accordo con te, Oscar, non c'è dubbio alcuno. Che dice De Bortoli? Io dico che il chiarimento è necessario, insomma, proviamo ad immaginare che cosa sarebbe accaduto se la Boschi e Renzi non fossero stati al governo, fossero stati degli esponenti politici locali e questo scandalo dell'Etruria fosse capitato nella parte opposta. Si sarebbero scatenati, no? Sì. Avrebbero chiesto tutta una serie di chiarimenti, avrebbero giustamente, perché la politica è fatta di queste cose, chiesto conto agli altri. Ricordiamoci che Renzi, quando non era Presidente del Consiglio, aveva la richiesta di dimissioni molto facile, insomma, no? Ha delegittimato persone che erano state coinvolte, ha chiesto ovviamente le dimissioni anche di persone del suo stesso partito, insomma. Allora, immaginiamo che cosa sarebbe accaduto se Renzi e Boschi fossero stati, diciamo, all'opposizione, insomma. Io credo che sia doveroso parlare anche dello scandalo che ha truffato migliaia di risparmiatori. Insomma, voglio dire, vogliamo, da che parte stanno, insomma? Stanno dalla parte dei risparmiatori o pensano che questa cosa sia semplicemente una strumentalizzazione politica? Perché non è una strumentalizzazione politica, certo, alcuni hanno esagerato con i toni, hanno forse, ma il dato di fondo, cioè che sono stati venduti dei prodotti tossici ai risparmiatori che non sapevano nulla, che hanno firmato decine e decine di fogli della cosiddetta MIFID, questo è un fatto concreto. Io vorrei capire se il Presidente del Consiglio e una ministra importante, significativa, che potrebbe anche essere la prossima Presidente del Consiglio, insomma, hanno qualcosa da dire sui meccanismi che portano ad una truffa ai risparmiatori. Hanno qualcosa da dire nei confronti di Banca Italia, di Consob, qualcosa da dire sulla collusione. Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Oscar, sulla collusione quasi criminale che si registra a alcuni livelli in molte banche locali, insomma, non soltanto locali, insomma. E anche forse qui bisognerebbe ritornare a parlare della separazione tra banca e impresa, perché questo fatto che poi a un certo momento le banche hanno avuto come azionisti gli imprenditori che hanno avuto degli affidamenti, esatto, insomma, no? E che hanno chiuso gli occhi, perché insomma sulla Popolare di Vicenza sono stati scritti degli articoli, bravissimo, anche coraggiosi, anche, sono stati scritti delle cose sul Sole 24 Ore, sottolineo, insomma, e i regolatori avevano davanti agli occhi articoli ben informati che dicevano qualcosa sta accadendo, qualcosa sta accadendo. E del resto, insomma, voglio dire, se siamo in un mercato è anche abbastanza curioso che poi il prezzo di un'azione lo faccia lo stesso uccidiamo, come succede, ecco, veramente 92 minuti di applausi per il sottoscritto. Io vorrei capire da Ferruccio De Bortoli se come scrivono i giornali, lo scrive anche oggi Repubblica, quindi un giornale non certo lontano dalle posizioni di Matteo Renzi, Renzi stesso, il Presidente del Consiglio, abbia in qualche modo una luna di miele offuscata ora con gli italiani, con il paese. È così secondo lei? Ma non lo so, io sono un po' analisi un po' frettolosa, se posso dire. Cioè, Renzi, insomma, è in campagna elettorale permanente. Questa è una campagna elettorale permanente. Secondo me il paese non si governa con una campagna elettorale permanente, promettendo quello che non si può promettere, per esempio i 500 euro ai diciottenni. Insomma, allora voglio dire, se tutte le volte si deve misurare il consenso, allora tanto vale andare alle elezioni subito, insomma. Allora, in questo caso c'è un atteggiamento che io trovo sbagliato. Governiamo, cioè c'è una ripresa da consolidare, ci sono degli appuntamenti importanti, c'è una lotta al terrorismo, insomma, mettiamoci lì. E poi soprattutto le critiche fanno parte di un sistema democratico. Solo che le elezioni in Italia ci sono sempre, cioè si pensa alle amministrative, insomma, come elezioni nazionali. Guardate i conti dello Stato, noi ci stiamo dimenticando che abbiamo un debito enorme sulle spalle e paghiamo tassi di interesse ridicoli che non meritiamo, Allora, voglio dire, vogliamo parlare della spesa pubblica, vogliamo parlare del consolidamento della ripresa, vogliamo parlare dell'efficacia degli strumenti che sono stati messi in campo per sostenere la ripresa. Abbiamo promesso il taglio dell'IRES, poi ce lo siamo rimangiati, insomma, ci siamo rimangiati tante cose. Allora, io credo che ci sia un problema di serietà. Dopodiché, in un dibattito più pacato, si riconoscono al governo Renzi dei meriti che effettivamente ha, perché comunque ha cambiato le cose e bisogna dargli atto da questo punto di vista, che è stato coraggioso, c'è stato un ricambio generazionale, anche brutale se vogliamo, ma era necessario in questo paese scuotere un po' le acque. Non pensi che tutti coloro che lo criticano sono dei nemici, perché questo non fa bene della democrazia e secondo me non dà merito neanche a un governo che ha tutto sommato fatto bene in alcune circostanze in questi quasi 2 anni. Allora, noi ci fermiamo qui, ringraziamo molto Ferruccio De Bortoli, così come Chicco Testa. Ci associamo a questo appello finale: criticare non significa essere gufi, e si dialoga per andare avanti insieme. Esattamente. Grazie, a domani.